ricordo più. Ma poi la giunta aveva cosa? Non mi ricordo più. Ah, mi ricordo che era tutto il problema dei linguistici. Ma adesso come si chiama quel programma per caricare quelle canzoni? Pagando? Come pagando? Pagando a me. Se mi paghi te lo dico. Ma è una cosa troppo penosa, perché c'è il liquido bianco. Inizia per sì e finisce per no. E giù del cocco? Ah, la sono fastidio. Lo so quello. Il programma si chiama Overnet. Ma se ce l'hai? Se ce l'hai ti do la chiave di intendere, ma lo faccio. Cliccate, però no, ma quando lo cercate, cliccate il programmino, cliccate e dico che è fatto. Bisogna accettarlo, perché altrimenti non viene di niente. Cercare cosa cercare e quindi tu quello che vuoi, questa è una pedatteria, almeno voglio dirlo. Comunque, purtroppo ci sono anche queste cose per il resto. Overnet, chi ti fa cazzo? Ma c'è Boglioso e scarichi solamente quelle altre cose. Boglioso con il pericolo. E quello è Thank you. nostro paese. Grazie. praticamente un Elbex che ho già dato. Com'era quell'Elbex, Gianni? Non mi ricordo la sigla. Non so. della motivazione. Questo di Becante, alias di Cantino, alias Gianni Cando, alias Gianni Zerru. Yeah, I have to be medico c'è a vera. Ma certo, ma la cosa che mi dici, quando ho fatto i giro di spazzare, poi dico che noi dobbiamo fare il tizio, e avere tutti che con i tizi di sistemi di polle, per la partita, per la migliare, ma sbagliato, se non fai un bel tizio, non mi dico, ho fatto la tizio di vita, non fa. Bene, lasciamo il nome con me, ma dice, vieni, dice, una di queste sere in campagna, che faccio le tizie, con un soggetto speciale che si è solo per le patate. situazioni si mettono questi mostri che non sono come i nostri, si chiamano Bazzwon, infatti in una maniera anche quelli da Rosolizzi. Ma vedete, mi chiedono, guardi, guarda, quelli grossi, tutti con un basalto al volo, scura. E quelli che si mette queste settimane a mangiarli e tu riesci a ritirirli. E noi li mangiamo con quei pesci che c'è il capo, un po' così pensante, ogni ruta la notte. Ma allora lo trauti. Non riusciamo a Perché io nel sito mio web si c'è già un uomo con le braccia aperte, dove c'è scritto come sei omosessualità. nostri compagni non ci sono di buona sempre me la macchina la no, non c'è di l'altra sera l'ho vista la giovane ancora un visto era con Italia e secondo me l'ho visto secondo me lo pensavo per vederlo ma fatto vedere che mi sono di capo la nuova e così siamo la prima del treno. Ma se la stazione non prende in macchina se la porta la casa tua, quello che ti prende, è già. Questa non mi è trovato, sì, mi è stato scattato. No, no, noi l'abbiamo lasciato nel portone, ma è giovane. Ma che non lo lasciate in macchina, già, non ti davanti da quando si andava a lavoro, se lo trovo in macchina. A voi che si parla con la famiglia, non si piace la rimattura se non mi stanno cercando. Ovviamente, chi è che l'ha visto il sito di Falcone? Tutti l'hanno visto? No, no, il sito si chiamava, non ho fatto alcune cose, ma il sito non l'ho mai visto. capito, tutti i scalini, capito, è proprio, hanno detto, mi ha detto proprio tre anni fa una persona, noi tre anni fa voi, anche quattro, una persona, che fa detto sì, come si usa il collo, vabbè, non devo dirlo qua, neanche comunque, non c'è paura, perché è un rete, quindi è una questione di dominio pubblico anche se vogliamo, quindi non è che poi c'è una cosa corretta, che è un rete e basta. E quindi non prima che devo dire mi fai il sito, sono alcune fotografie, e c'è il 2023, fatti veramente bene, selezionati, pulisti, da là la gente di 30 cattivine, tutte le cose, c'è tutto quanto, un sito veramente ben nutrito di tutte queste cose qua. Io ho portato proprio ore a vivere perché nei periodi calibri dell'esito della calcetta, c'è tutte le cose, fatti per bene, che ci sapete la gente di farlo qua. Non tanto che l'attendo di fare il sito, l'attendo di registrarlo tempo fa, e di fare tutto, perché io sì, forse volta avevo registrato proprio di fare un fatto. Ma qui c'era qualcosa, qualcuno che sapeva, che mi parla ogni passaggio, a vedere ci sono dice lì, nomina, che sono cose molto, molto vecchie. Qualcuno che proprio registrava, le sue cose stesse la finte come in tesoro, ma dopodiché le ha passate, le tre sono le tutti i tutti. Solo che non tutti le sanno di lì, lo sanno, capito? È molto un po' strano, potrebbe essere sui fiscali. Però ho dovuto fare, ovviamente non lo posso dare, no, io ce l'ho. Però se non mi dico non mi dice che la pagina non c'è più resistente, però ho da un amico, ho fatto un'altra ricerca, quindi con l'invenzione in un'altra maniera, l'ho provata. Però adesso non mi pare più, forse l'avranno chiuso, che sono lei, che ne so, i familiari hanno visto, qualcuno lo è, e hanno fatto posizione, l'hanno eliminato dalla circolazione, insomma, tante cose possono succedere, capisci? Però l'ha fatto veramente, veramente bene. Ma sono sicuro che poi l'abbiamo portato come tipo di indirizzo, se mi sono trovato il sito, però abbiamo diritto di lasciare un nuovo di certo. Quello può essere, però io non l'ho trovato, non l'ho trovato più. Dunque, se capita, se devo trovarlo, devo sapere dove si trova. Beh, Thank you. anni cinesi che sono andati così per vederlo, perché erano curiosi per vedere in faccia. E noi ti dice, in tempo che non ho visto in cinese, se tu non vedi, dice, c'è un servizio che lui non ha prendato, ti dice, non ci può essere mai che possa essere lui. Ma è vero, io lo conosco perché io sono vicino a lui, la verità. Io mi telefono, siamo da qui a casa, è una sessione di va, e alla fine non ho trovato più. Poi, ma qualche volta andavo a trovarla per l'ultima sera perché come decisione fare un'opera di bene, ma il poveraccio mi sembrava. Poi adesso perché siccome parlava male, mi stai squattrando, va a finire da qui, insomma, non so parlare più, basta, mi facciamo un amico, non mi dici, cosa succede allora, insomma, è veramente insopportabile. E allora, insomma, ho quello più punti, ma per dirti, quello più punti invece che mi sarebbe che non ho spesso, dove sono l'animo pensato a parlare, non so, 2 minuti, quindi che non c'è quello che la famiglia sua, ripeto, io sono molto vicino a casa sua, quindi, per dire, di vicinato ci conosciamo, capito, solo per quello che è, altrimenti non ho trovato la testa di me. Guarda, io lo conosco perché anche io sono stato curioso di sapere chi fosse, chi non fosse, cioè la curiosità che mi viene. Tempo fa, con tanti pochi mi avevo fatto male, non avevo fatto, sono detto la famiglia telefonica, è fatto perché lo volevo vedere. Allora, poi lui mi ha detto che di frequenza, e tutti sentivano, tutti quanti andavano a vedere. E io sono molto piacere curioso, perché quello se allora niente. Ma non ho più di sera, Sì, lui ho parlato scatto, sai? No, mi hai capito te? Mi hai detto che il cagliolo. Ma mi ha fatto ancora un diavolo, è un anomalo, ho fatto una foto del tuo corpo, no? qua non tanto più tu. Thank you. Grazie. qualcosa all'interno di un apparato che magari si deve sapere tutto lì. capito, però lì c'è per esempio quello schema lì è uguale a, cioè, c'è una serie di nomi di apparati, no? Questo quello che non siete mandati, quello che, cioè, capito, vedete quella piazza lì, quella scheda lì va bene per quel tipo di apparati che lì ha recensito di mantenere, lui ha una vita, non so che cavolo sia, no? Dice manco una cosa in inglese, per dirsi, però cioè, ha intenzione di dire cos'è quello, cos'è quella manuale, si dice man, l'altro schematic diagrammi, l'altro schema blocchi, l'altro che sono altre verifiche, connessioni uguali di tutti i microfoni, alterne, delta, delta, astatici, tutti i microfoni del mondo sono lì. Cioè, il termine collegato al Galaxy, al Pace, al, cioè, tutte le connessioni sono scritte, disegnate e via dicendo. Quindi è un macello. Ripeto, per me ho preso quanto qualcuno cose che mi servono e basta. Dove c'è la radio, c'è la tua foto, le caratteristiche, cosa ho fatto da quando è stato costruita e via dicendo. Qui ci sono manuali che esistono interamente, manuali delle apparate, qui ci sono modifiche che ovviamente il cliente si è sperimentato e le mettono sui denti lì, sui relatori in tutto il mondo, e si deve in lingua inglese, quindi bisogna anche capire quello che si sta leggendo, dopodiché si fa le modifiche che si crede che siano opportune per la sua radio. Gianni, scusate la monoprogestione, Gianni, che è il mic. Thank you. Thank you.

non so, questa volta non è una cosa seria. Thank you. il fatto è che c'è un contatto con l'Elica. Non capisco bene, ripeto, scusami. Thank you. Thank you. Thank you. A parte la chiesa, quindi ho dovuto fondare tutto, di questo che sono entrati e ho affondato il sangue per terra, come ha capito evidentemente quello che mi regalo il secondo comunico, quello che io ho visto era quello. Era quindi dietro anche la c'era lui, era morte a causa caduta e traumatrani, quindi aveva 3 giorni lì chiuso in quella casa. Tutto lì. Io non lo so, poi ripeto, non è che i carabinieri hanno dato il mando, hanno detto, loro hanno fatto la loro mano, tutti sono andati e si sono portati altri, però al primo impatto è stato quello che hanno detto era quello, quindi non io mi sono portato a vedere che giustamente sono cose che si danno e vengono per loro, quello con queste cose quanto mi ripeto lì. Ragazzi, io ho tutta l'ora delle cose mezzanotte, oggi ho quattro che sono messi a Contoni, Cioccolataia e compagnia, soltanto loro. Faccio come ti non riprendo, ascolta solo il finale e non prendo più. Io metto il microfono, non ho tutti. Thank you.